Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Ciao a tutte e a tutti e bentornati sui 103.1. Sono sempre io, Veronica, e anche oggi a Fermata Provvisoria vi terrò compagnia con una bella intervista. Sì, perché oggi l'artista con cui parlerò si chiama Ginevra Scognamiglio, una ragazza campana che si trasferisce giovanissima a Roma per studiare musica. Nella capitale, a scuola, conosce gli amici che la accompagneranno nel suo primo progetto musicale in cui canta in inglese. Finita l'università, però, la band si scioglie e Ginevra, ormai abbandonata la strada dell'italiano, insieme ad un ex membro del gruppo, decide di trasferirsi in Australia, a Melbourne, per tentare di diventare un duo. Un soggiorno che non si rivelerà particolarmente felice se non per la composizione di due canzoni, e una di queste si intitola Senza di me, ed è il brano che non solo sancisce il definitivo passaggio alla lingua madre, ma anche il ritorno alla patria natia e la conseguente nascita del nome d'arte Sveglia Ginevra. Il ritorno all'italiano è stata una conseguenza naturale, diciamo, perché Ginevra a casa ha sempre ascoltato i dischi dei grandi cantautori italiani, con una particolare predilezione per Dalla e De Gregori, ma la formazione scolastica l'ha portata in tutt'altra direzione, quindi di più verso il jazz, il folk di matrice britannica. L'esilio ha poi indotto Ginevra a tornare agli ascolti che non hanno contraddistinto l'infanzia, sopendo l'esigenza di tenere un diario di viaggio. Certo, un cambio di nome naturalmente non equivale matematicamente ad una rinnovata identità artistica, però si sa che, insomma, quando si è lontani da casa è molto più semplice, diciamo, tornare ad esprimersi nella lingua in cui si formulano i pensieri. E qui entra in gioco la clinica dischi, a cui Ginevra inoltra 10 provini registrati col cellulare all'etichetta, di, diciamo, pessima qualità, però questa pessima qualità dell'audio non ne intacca il talento. Infatti nell'etichetta discografica La Clinica Dischi, Sveglia Ginevra trova il suo habitat ideale, creando uno stile ibrido e sospeso tra il cantautorato di Bersani e l'art pop di Stevens, capace quindi di far coesistere il passato, presente e remoto dell'autrice. Di questi 10 provini rimane un'unica canzone, ovvero la prima, quella che ho citato precedentemente dal titolo Senza di me, e allora direi che, dato che l'ho già nominata varie volte, possiamo ascoltarcela prima di collegarci direttamente al telefono con lei e per farci, diciamo, raccontare un po' il suo percorso artistico. Questa è Senza di me di Sveglia Ginevra. Cammino per la città senza una meta, senza sapere che cosa fai e dove sei e se stai bene senza di me. E mi domando se mai ti è capitato di non sapere dov'è che vai e di chiederti se sto bene senza di te. Se sto bene senza. E non è normale, io non riesco più a guardare neanche un film d'amore che poi mi prende male. E poi dimenticare è una cosa che non ho mai saputo fare. Fare soltanto con te. Te lo ricordi quel bar? E poi parcheggia di fronte al mare. Che poi non so se sai, è rimasto tutto uguale. Torna con me, torna con me. E non è normale, io non riesco più a guardare neanche un film d'amore che poi mi prende male. E poi dimenticare è una cosa che non ho mai saputo fare. questa era Senza di me, brano della cantante Sveglia Ginevra che tra pochissimo intervisteremo qui a Radio Città Fujiko. Tra l'altro lei è stata scelta e fa parte dei 61 artisti che parteciperanno alle selezioni di Sanremo Giovani 2021. Per chi non lo sapesse, ricordo che il percorso per arrivare poi ufficialmente sul palco dell'Ariston per partecipare al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte è abbastanza lungo e travagliato. Infatti questi 61 artisti dovrebbero aver già fatto un'audizione dal vivo davanti alla commissione artistica del Festival, mentre successivamente andranno ad Ama Sanremo, e subito dopo c'è la sfida di Sanremo Giovani fino ad arrivare a scegliere i 6 finalisti delle Nuove Proposte, quindi insomma percorso bello impegnativo. Di questo ne parliamo adesso direttamente con Sveglia Ginevra, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Ginevra. Ciao Veronica. Ciao ciao. Come va? Bene, bene, molto bene. Tu? Tutto bene. Come lo stai vivendo questo periodo, diciamo, travagliato, un po' precario? In realtà, allora, il primo lockdown per me è stato molto produttivo. Ho praticamente scritto metà album, metà disco di esordio. Questa volta emotivamente è stato molto più difficile. Non so perché, semplicemente perché sia la seconda o perché magari ho chiuso il disco e quindi sto cercando di capire, di sperimentare, non so. Mi trovo molto in difficoltà, ma comunque sono sicura che andrà tutto molto meglio. Sono una persona molto positiva, quindi non mi lascio abbattere dallo stato mentale triste o chissà che. Triste solo quando scrivo le canzoni, chiaramente. Sì, assolutamente c'è bisogno di positività in questo periodo. Comunque, stavo dicendo prima ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che tu sei tra i 61 artisti che sono stati scelti per partecipare alle selezioni di Sanremo Giovani 2021. E cosa puoi dirci di questa nuova e grande esperienza? Allora, in realtà è avvenuto tutto in maniera molto casuale, nel senso che non è stato il brano che poi è stato selezionato, non è stato scritto appositamente per Sanremo, però a un certo punto ci sono stati, diciamo, le iscrizioni a Sanremo, abbiamo detto ma vediamo se abbiamo un brano che potrebbe andare bene, e inaspettatamente è stato selezionato dai 61 e non me l'aspettavo proprio, un po' perché non credevo di poter rientrare tra i selezionati, un po' perché non scrivo secondo me brani tipicamente sanremesi, però appunto Sanremo poi soprattutto negli ultimi anni si sta evolvendo, sta un po' abbandonando quella che è la classicità, che erano magari i brani di 10-20 anni fa. Sì. No, è stato molto bello anche solo essere selezionata su più o meno 1000 artisti, quindi sono stata onorata. Sì, certo, sicuramente un grande traguardo. Sì, sì, sì, sì, sì. Senti, adesso invece farei un salto indietro e ti chiederei di parlarci un po' di come è iniziato il tuo approccio alla musica e anche delle tue influenze musicali che poi ti hanno portato ad essere quella che sei oggi. Assolutamente sì. Allora, io comincio a scrivere e suonare più o meno alla stessa età. Diciamo che ho voluto fortemente imparare a suonare la chitarra perché avevo bisogno di uno strumento per scrivere e tirare fuori insomma quello che avevo dentro. Quindi avevo intorno ai 10 anni e mio padre mi regalò una chitarra. Lui la suonicchiava e mi ha insegnato insomma le prime cose, poi da lì è stato tutto, insomma da lì poi dopo anni e anni mi ritrovi qui a parlare con te di questo progetto. Per quanto riguarda le influenze, allora ho iniziato con il cantautorato italiano, che sia Dalla, De Gregori, Battisti, perché a casa mia è veramente la musica che più ascoltano i miei da, non so, anni 70, anni 80, sia mia mamma che mio padre sono appassionati di musica. E poi pian piano sono riuscita a levigare quelle che erano i miei gusti musicali, quindi sono arrivata a scoprire la musica internazionale e quindi ho ascoltato un po' di punk, un po' di rock, un po' di jazz, perché poi io ho studiato, quindi alcune cose ho dovuto ascoltarle, però in generale la musica mi piace tutta, cioè, canzoni belle possono essere di diverso genere, non ho pregiudizi. Infatti, però ci sono stati, dimmi. Parlando di musica internazionale, volevo dire, tu ti sei trasferita per un periodo in Australia, giusto? Giustissimo. Quindi questa tua esperienza ha influenzato in un certo modo la tua personalità e anche il tuo modo di fare musica? Assolutamente, sì. Perché poi considera che io mi sono trasferita in Australia e ci ho vissuto 2 anni, perché prima di questo progetto avevo un progetto in cui io scrivevo e cantavo in inglese. Quindi la scelta di trasferirci io e gli altri membri del gruppo è stata anche per questo, perché abbiamo detto: cosa facciamo qui in Italia? Cantiamo in inglese, ma non riusciamo a... Innanzitutto io avevo bisogno di praticare la lingua, perché parlavo inglese tramite gli ascolti, film, ma un conto è studiarla e un conto è viverla e parlarla. Certo. Quindi avevo bisogno di... Però a caso ho voluto che poi, arrivata lì, dopo un po' di tempo ho cominciato proprio a sentire nostalgia per l'Italia. Più sei lontana e più ti leghi alle origini. Questo è quello che ho vissuto io sulla mia pelle. Tant'è che poi la mia prima canzone, che è Senza di me, che è la mia prima canzone in italiano, è quella che poi è uscita come primo singolo con La Clinica. E infatti noi adesso sulle nostre frequenze abbiamo appena trasmesso questa canzone, che come hai detto tu è il tuo primo brano in collaborazione con La Clinica Dischi. E allora, dato che siamo entrate nel discorso, ne approfitto per chiederti come è iniziata la collaborazione appunto con questa etichetta e come è iniziata l'avventura di Sveglia Ginevra. Allora, io mi diverto sempre a raccontare questa cosa qui, perché secondo me è surreale il modo in cui io abbia conosciuto e poi sei entrata a far parte del roster della Clinica Dischi, che saluto. Ciao ragazzi. Allora, io ho scoperto Manuel Apice, artista della Clinica, su Spotify, e conseguentemente ho scoperto comunque Martina. E ascoltavo i loro brani, mi piacevano tantissimo, e di tanto in tanto scrivevo su Instagram alla Clinica per complimentarmi. Non so, poi mi piace molto, no, il contatto diretto, scrivere se complimenti sinceri, se un lavoro è fatto bene. E quindi a un certo punto, dopo un po' che scrivevo, loro, cioè Milo, il attuale manager nonché fondatore della Clinica, mi scrive: ma perché non ci mandi qualcosa di tuo? E poi da lì io non avevo niente di registrato, ho registrato al volo 10 canzoni dal cellulare, che so, le 10 canzoni che avevo, che mi sembravano le migliori, e le ho mandate a loro, che mi hanno chiesto di fare un provino e di andare su a Spezia, in Liguria, dove è la sede poi attuale della Clinica, e mi hanno detto: ti prego, vieni a fare un provino se ti va, perché non abbiamo ben capito le canzoni, perché la qualità era veramente pessima. Quindi questa cosa mi fa ridere, perché in realtà il provino è avvenuto semplicemente perché loro hanno magari intravisto, intuito un potenziale, però fa ridere che loro mi abbiano chiamato perché non si capiva bene, non si capivano bene le canzoni. Quindi poi sono andata lì e poi da lì è cominciato tutto. Nonostante la qualità, diciamo, non proprio la qualità pessima dell'audio, comunque è stato intravisto qualcosa, hanno notato subito qualcosa in te. Adesso invece ti faccio una domanda sul tuo singolo dal nome Come fanno le onde, dato che subito dopo questa intervista lo trasmetteremo sulle nostre frequenze. E tu in questa canzone parli di sbagli e certezze, a cosa ti riferisci? Cioè, spiegaci un po' il tuo punto di vista su questo pezzo. Allora, Come fanno le onde l'ho scritto perché ci sono storie, secondo me, che hanno bisogno di... che hanno sicuramente tante domande senza risposta, e che magari hai bisogno che queste storie si chiudano per poi ricominciare e ricostruire e poi riprenderne delle altre. E quindi avevo bisogno di chiedermi e di paragonare, in questo caso, le onde, perché magari ci sono movimenti naturali o cose naturali che vedi perché facciano in questo modo e come facciano, e però non c'è una risposta. E quindi questa storia qui, quando ho scritto Come fanno le onde, è una di quelle storie complicate, travagliate, e non riuscivo a capire perché non andasse bene. Il rapporto logorato, delle strofe, parlo anche dei problemi che ci sono, degli sbagli che si fanno in tutte le storie, delle incertezze, e quindi Come fanno le onde è nata così. Che poi non mi aspettavo che avesse tutto questo seguito, mi sono molto contenta di come stia andando Come fanno le onde. E poi perché comunque quando si scrive una canzone sei te in camera con la chitarra da sola, poi a un certo punto questa canzone viene fuori e la condividi con tutti e probabilmente anche con persone che hanno vissuto o che magari stanno vivendo la stessa cosa tua, quindi è bello questa condivisione, secondo me è la parte più bella di questo mestiere, se si può chiamare sì. Per ora. Sì, sono assolutamente d'accordo, la musica è condivisione, soprattutto in questo periodo di incertezza ce n'è assolutamente bisogno. Assolutamente sì. Senti, ultima domanda, tu di recente sulle tue pagine social hai scritto che a breve, parliamo di questo mese, novembre, arriverà un nuovo singolo, e che cosa puoi svelarci? Allora, posso svelarti che è un brano a cui tengo particolarmente, tra l'altro è il brano che è stato selezionato tra i 61 artisti per Sanremo, giovani, ed è sicuramente una parte di me che non è stata ancora svelata e che è un po' diversa da quelle che sono poi i singoli usciti finora, quindi sicuramente le persone che lo ascolteranno secondo me capiranno ancora più sfaccettature di quello che è il progetto. È ancora una volta una storia d'amore, è un amore sicuramente più maturo, più diverso, più consapevole, come lo sono io rispetto magari a 2 anni fa. Beh, direi che con questa descrizione noi siamo ancora più curiosi di sentire questo nuovo singolo, quindi lo aspettiamo con ansia e subito dopo ci sarà pure un album. Sì, assolutamente, il disco d'esordio, che non vedo l'ora. Anche noi non vediamo l'ora, assolutamente. Quindi io ti faccio un enorme in bocca al lupo per tutto quello che verrà e ti ringrazio naturalmente per la disponibilità. Viva il lupo e grazie a te Veronica per la bellissima intervista, e poi ci sentiamo per, così mi fai sapere cosa pensi della canzone nuova. Assolutamente, lo chiediamo pure ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ci devono assolutamente far sapere cosa ne pensano. Grazie. E adesso ci salutiamo con questo brano che abbiamo accennato poco fa dal titolo Come fanno le onde. Ciao! Ciao Veronica, ciao! Non sono stata io, sì che ti ho detto addio, ma neanche so come si fa, come si farà a stare bene, bene, mi scoppia la testa. Ti giuro che ci vengo a sbronzare alla tua festa per prendere le cose che ho lasciato. Sei tu che hai cominciato a dire che l'amore mi ha cambiato. Farò una bella lista per non dimenticare, e poi ti lascio andare, e poi ti lascio andare. E parlerò di noi, di quella volta che il tempo poi ci spiegherà. Ma come fanno le onde a ripartire sempre, a ripartire sempre? Parlerò di noi, di questo amore che il tempo poi ci spiegherà. Ma come fanno le stelle a brillare sempre, a brillare sempre? Guardiamo la TV, noi non ci amiamo più, un bacio di sfuggita solo alla pubblicità. Non è normale, ma se sposti il cuore a destra, ti giuro che stavolta non è una protesta. Dai passo per le case che ho lasciato, sei tu che hai cominciato a dire che l'amore mi ha cambiato. Farò una bella lista per non dimenticare, e poi ti lascio andare, e poi ti lascio andare. E parlerò di noi, di quella volta che il tempo poi ci spiegherà. Ma come fanno le onde a ripartire sempre, a ripartire sempre? Parlerò di noi, di questo amore che il tempo poi ci spiegherà. Ma come fanno le stelle a brillare sempre, a brillare sempre? Il tempo poi ci spiegherà. Ma come fanno le onde a ripartire sempre?